e denari. E rieccoci di nuovo insieme in questa seconda puntata del nostro appuntamento agostano. In questa settimana viaggiamo insieme a voi, vi veniamo vicini vicini con la nostra trasmissione, vi proponiamo percorsi centrati sulla vita relazionale, sulla vita emotiva. Per tutta questa settimana il mio compagno di viaggio sarà Alberto Pellai, lo conoscete bene, è un medico, è uno psicoterapeuta, un ricercatore in igiene e sanità pubblica all'Università di Milano, che viene spesso a trovarci a Cuore dei Nari e ci accompagna in percorsi e riflessioni che hanno a che fare con la nostra vita, ma a noi piace avere sempre nuovi compagni di viaggio ed oggi un grande artista starà con noi per l'intera puntata. Voglio farvelo subito conoscere partendo da una sua composizione di grande bellezza. Abbiamo in studio con noi, e io sono felice, il maestro Roberto Cacciapaglia. Buongiorno maestro. Buongiorno Nicoletta e buongiorno ai nostri ascoltatori. Buongiorno Alberto. Eccolo qui Alberto. Eccomi qua. Vedi, anch'io. Ad ascoltare, noi siamo già subito rigenerati. È sublime. Quella che abbiamo appena ascoltato è una musica sublime, dice Alberto, meravigliosa, tratta dal nuovissimo CD del maestro Cacciapaglia, intitolato Tree of Life. È giusta la pronuncia, Alberto? Perfetta. Presumo che a qualcuno di voi questa musica risuoni anche molto familiare, perché appartiene alla suite intitolata Tree of Life, Albero della Vita, che viene trasmessa tutte le sere a Expo al momento dell'accensione dell'albero, che è poi il simbolo di questa grande manifestazione. Maestro, noi ci diamo del tu, quindi ti dico maestro e ti do del tu. Così, benissimo, eh? Benissimo. Tu hai appena pubblicato un CD con le tue bellissime composizioni artistiche che ha proprio questa unicità, contiene la colonna sonora di Expo, la musica ufficiale di questa grande manifestazione mondiale di cui noi tutti italiani siamo molto fieri. Maestro, essere scelti per scrivere e suonare la colonna sonora di un evento di portata mondiale, che cosa ha significato per te? Che ci aiuti a capire come è successo, come sei stato scelto e soprattutto che cosa hai provato nel momento in cui hai capito che eri tu. Ma diciamo una cosa interessante è che Marco Balic, perché è giusto citarlo perché è il regista, poi l'ideatore dell'Albero della Vita, mi ha proposto, quando il tutto era ancora sulla carta, di scrivere la musica, la colonna sonora per l'albero. Ma la cosa che ti dico che mi ha colpito di più è che in quest'albero io ho visto tante cose. Prima di tutto un'icona che rappresenta il nostro momento storico, credo. Perché da una parte c'è una risonanza che dice che dobbiamo stare uniti e vicino alla natura, sia in senso interiore, biologico, che anche esteriore. Che questo è importantissimo, le radici. Poi la colonna, che Martha Graham diceva, la colonna vertebrale, è l'albero della vita, sai, questa grande coreografa, no? E poi i rami, che dal mio punto di vista sono il futuro, sono la tecnologia, no? Quindi ho visto tutto questo, no? Mettere in relazione queste cose che possono sembrare distanti, che invece sono la scommessa, credo, della nostra epoca. E quindi io lavoro sui poteri del suono e mi è interessato proprio molto questo. Mi ha riportato a una musica che forse trova corrispondenza nel mito di Orfeo, quel mito che attraverso il suono incantava i delfini e faceva danzare gli alberi. E questo maestro ci incanta sempre, e tutte le volte che viene ci incanta, Alberto. E tra l'altro oggi in studio col maestro Cacciapaglia noi faremo un viaggio relazionale ed emotivo pieno di spunti interessanti. Ma sì, direi intanto... Perché anche Alberto è maestro, eh? Ecco, il maestro piccolo, per così, che ci aiuta un po' a relazionarci con quelle emozioni, quei sentimenti, quelle cose che sentiamo e a cui tante volte non riusciamo a dare le parole giuste, a descrivere nel modo e magari adeguato. Entriamo allora nel flusso di una musica che improvvisamente ci dà, ci dà quelle sensazioni o quelle emozioni che abbiamo dentro e non riusciamo magari a cogliere nella quotidianità. Rimane il dato di fatto che oltre al fatto che avremo una musica che è davvero una musica che ci mette in sintonia con il nostro mondo profondo e ci aiuta ad alzare lo sguardo, abbiamo la musica di Expo e quindi ci spalanca una porta di accesso a un tema fondamentale. È un tema che tu tratti anche moltissime volte nella tua trasmissione, il rapporto che abbiamo col cibo, che ha infinite connotazioni, perché ha connotazioni relazionali ed emotive molto profonde, l'aspetto conviviale del cibo, anche un po' quelle che abbiamo con i denari, ci sono delle somiglianze, assolutamente, eh? Ha una connotazione biologica organica assolutamente potente e importante, e è un tema molto profondo anche di educazione, che sai che è una di quelle finestre che nella tua trasmissione tu tieni spesse volte. È vero, e lo facciamo con grande piacere, perché spesso i nostri ascoltatori, maestro, ci scrivono e ci raccontano frammenti della loro vita, ci chiedono dei consigli. Noi abbiamo raccolto alcune mail, abbiamo dedicato a queste richieste di aiuto, di confronto, di consigli, sempre una parte di questo incontri sotto l'ombrellone, perché capita così, proprio sotto l'ombrellone ci si scambia, ci si apre anche un po' il cuore, oltre a prendere il sole, a chiacchierare e a leggere. E allora andiamo insieme ad affrontare la sfida di oggi. I miei due figli, Paolo e Lucia, hanno 11 e 9 anni. Sono entrambi un po' in sovrappeso, niente di grave, anche a detta del nostro pediatra, ma è bene che imparino a fare attenzione alla loro alimentazione. Io sono tornato da una vacanza in un villaggio turistico dove ci siamo molto divertiti, ma il momento dei pasti per me è stato un incubo. Il buffet sempre fornito era una tentazione irresistibile per loro, che riempivano i piatti con i cibi più calorici che tra l'altro poi, in parte, abbandonavano nel piatto senza consumare. Tornati a casa ci siamo resi conto che entrambi erano ingrassati, ma al di là di questo fatto, io sono rimasto male per il loro modo di avvicinarsi al cibo in una situazione come quella del buffet. Quantità esagerate e nessuna attenzione alla qualità nutrizionale di ciò che mettevano nel piatto. Dove ho sbagliato? Come rimediare adesso? Allora Alberto, vengo subito da te. Che cosa hai pensato di questa lettera? C'è molto da fare a casa di Marta? Ma credo che ci sia molto da fare nelle case di tutti, e tra le altre cose proprio il tema del rapporto che abbiamo col cibo, dello spreco che facciamo del cibo, della non capacità di gestire il cibo nella giusta quantità ma anche nella giusta qualità, ci riguarda un po' tutti. Io, se dovessi dare un titolo a questa lettera, la chiamerei la sindrome del buffet, che ci colpisce tutti in moltissime situazioni, molto frequente durante l'estate, semplicemente perché c'è una sovrabbondanza di cibo che in automatico ci rende incapaci di capire qual è il cibo di cui abbiamo veramente bisogno, quali sono i nutrienti che fanno veramente bene al nostro corpo, e poi anche quali sono di questo cibo le quantità di cui vogliamo nutrirci. Per cui la sindrome del buffet invece è questo modo assolutamente sregolato di trovarsi davanti una enorme quantità di cibo, selezionare di solito il meno nutriente e il più invece, chiamiamolo così, palatabile, cioè quello che spesso in realtà è molto molto saporito e gustoso, però magari ci fa meno male, e allo stesso tempo poi generare anche uno spreco di cibo che, se ci pensi bene, hanno molto a che fare anche col Tree of Life, Albero della Vita ed Expo, perché sono i temi fondamentali su cui è partita la riflessione, anche si è sviluppato tutta la manifestazione di Expo di cui stiamo parlando anche oggi. E a proposito, noi ci facciamo una pausa ragionata insieme al maestro Cacciapaglia, che coinvolgeremo naturalmente in questa discussione su questo rapporto che abbiamo con il cibo, ma anche un po' come le relazioni. Alberto, non trovi? Tu hai coniato la sindrome da buffet. Tante volte anche la nostra vita è un po' permeata dalla sindrome da buffet, no? Siamo bulimici, ed effettivamente il fatto che non riusciamo a scegliere quello che davvero vogliamo scegliere, in automatico ci mette nella posizione di essere scelti dal tutto che ci travolge. Maestro, che cosa ne pensa lei di questa sorta di bulimia della sindrome da buffet, di cui immagino un artista magari viene a contatto? Assolutamente, certo, ma è molto importante perché fa parte della nostra cultura, credo, e credo che anche il pericolo per noi possa essere quello di non riuscire a distinguere più tra un piatto di spaghetti ben cucinati al dente con ingredienti buoni e un altro invece tutto il contrario, no? Questo perché è la cultura, e la cultura che in un certo senso stiamo perdendo un po', no? Io spesso la collego alla musica, ma penso si possa collegare a tutto, no? Per esempio, noi abbiamo un modo di fruire la musica che non è un po' bulimico. Sì, bulimico e anche superficiale, diciamo, siccome siamo d'estate direi che la usiamo più come un salvagente, quindi in superficie, e invece dovremmo essere nella musica e nel cibo più dei subacquei che vanno in profondità e raccolgono le perle che queste cose, queste arti, perché anche l'arte del cibo, voglio dire, è importante, non ci allora, possono dare. Dato che io, maestro, voglio far sentire ai nostri amici da casa un altro estratto del brano dall'album Tree of Life, e vogliamo fare i subacquei. Bene. Ecco, aiutami a capire. Sì. Una musica si ascolta. Ecco, ma volendo fare un ascolto un po' attento, prepariamoci un attimo prima di andare ad ascoltare. Dammi tre parole chiave, aiutami. Non giudicare, non pensare, aprirsi all'esperienza. Alberto, allora, non giudicare, quindi non essere giudicante, ti sei aperto, hai ascoltato. Ero proprio rapito nel flusso della musica. Sai, proprio quando dici da sub, io ero immerso. Che bello. Però tu devi riemergere, perché dobbiamo fare tante cose, dobbiamo parlare anche della sindrome da buffet, ma dobbiamo stare. Mi è piaciuto questo parallelo tra della sindrome da buffet, che è una sindrome un po' trasversale, ne parlava anche il maestro Cacciapaglia, no? Anche nella fruizione della musica. Sì, io tra l'altro, guarda, rifletto su me come ascoltatore e consumatore di musica, cioè per me avere ai tempi in mano un vinile e poi avere in mano un CD significava proprio fare un viaggio dentro a un progetto musicale, guardare la copertina, leggere i testi. Se adesso invece scarico musica e quindi ho dei file digitali, io ho delle tracce di cui però perdo un po' tutto l'insieme, fatico a trovare il libretto, e poi proprio perché le ho dentro uno strumento che sta con me, ne ha dentro 2500, è davvero difficile quando tu apri quella cosa che è così ricca. Una delle fatiche che faccio io è selezionare la canzone o l'album che voglio sentire nella prossima mezz'ora, perché c'è tutto lì dentro e quindi non ce la fai quasi dall'eccesso di abbondanza. Io ho proprio perso un po' il percorso di me selezionatore musicale nel momento in cui, invece di avere in mano un LP un CD, ho avuto in mano 3000 brani dentro il mio iPad. Maestro, è irrecuperabile o si può fare qualcosa? Tra l'altro, diciamo, voglio ricordare che il brano che abbiamo appena ascoltato, che ci ha rapito, perché l'abbiamo seguito, se siamo riusciti a farlo, con le indicazioni del maestro Cacciapaglia, si intitola Fiamme. Ma possiamo un po' recuperare questo piacere nel gustare, nel degustare la musica, nell'apprezzarla, nel metterci nella condizione di farci parlare dalla musica, no? Nell'ascoltarla, perché poi la musica ci parla, va un po' come i profumi. Ci attraversano. Arrivano e sì. Riportano fuori, no, immagini, ricordi, situazioni. È un po' lo stesso processo che fa la musica, maestro. Sì, è molto interessante quello che diceva il professore Alberto. Sì. Qua perché... siamo maestro, professore, non so come... mamma mia, è difficile questa puntata. Come diceva Alberto, perché secondo me ha disegnato bene una situazione. Lui parlava del vinile, parlava dei CD, potremmo anche parlare dei nastri. Sono tutte cose che si muovevano nel tempo, giravano, no? Quindi è un processo temporale. Oggi, con le memorie rigide, il rapporto è più con lo spazio. Cioè c'è un cambio dallo spazio che ricorda un po' la tavolozza di un pittore, dove tu puoi prendere qualsiasi colore che venga da milioni di anni fa o dalla musica o della preistoria, piuttosto che dall'ultimo dance a New York o da un canto gregoriano, con la stessa influenza. Quindi non c'è più prospettiva. Una volta eravamo influenzati, la prospettiva delle avanguardie, da quello che arrivava immediatamente prima, cioè quello che era più lontano ci influenzava meno, e quindi un rapporto nel tempo. Giravano i nastri, girava il vinile. Oggi invece abbiamo, da un punto di vista sia compositivo che di fruizione della musica, è un rapporto con lo spazio, con l'infinito, quindi è un po' diverso. Alberto. Sì, credo che un altro aspetto che a me faceva veramente la differenza era poi il poter avere tra le mani la concretezza di un oggetto che conteneva le tracce musicali, cioè poterla toccare la musica e tutto quello che ci stava attaccato, no? Cioè la copertina, il foglio di carta, la fotografia, il testo, cioè essere dentro a un flusso musicale, ma allo stesso tempo anche vederlo da fuori in tutti i suoi connotati concreti. Era anche concreti. Un oggetto, un po' come la lettura su un libro del cartaceo rispetto alla lettura. Io in qualche modo credo di, se voglio davvero gustare un CD, io la cosa che faccio è me lo scelgo per un lungo viaggio in macchina, dove so che sarò io da solo il mio CD, me lo guardo bene prima, poi lo metto e lì dentro a quella scatola, io e la musica, facciamo un percorso mentre ci muoviamo. Maestro, il brano che abbiamo ascoltato, e anche ne ascolteremo altri nel corso della nostra chiacchierata, è un brano ricchissimo di emozione e suggestione, ma toglimi una curiosità. Come arriva, come avviene il processo creativo? Dove e come senti nascere dentro di te una melodia così intensa e ricca di suggestioni? Quando ti ho chiesto della colonna sonora di Expo, tu hai detto che hai visualizzato, no? L'importanza delle radici, poi il fatto che dobbiamo stare tutti uniti, la vicinanza con la terra. Quindi tu parti da un pensiero e poi lo traduci in musica? O quali sono? O poi magari ce ne sono tanti modi per arrivare poi a una composizione, immagino. Che bella domanda, Nicoletta, questa è veramente una bella domanda, interessante, perché diciamo, quando io scrivo musica, musica che non ha un soggetto diverso da se stessa, io parto dal silenzio. Il silenzio è come un mare calmo, diciamo, rimaniamo d'estate, siamo sempre al mare, una piattaforma, e allora lì, se riesco attraverso questo silenzio a entrare in uno stato profondo, quello che esce poi è un contenuto che poi come una freccia si dirige verso chi ascolta e si crea una comunione attraverso il suono, quello che, di cui parlavano nei circoli pitagorici, di questo suono, poi, no? Con le armoniche, tutto, eccetera. Però nel caso per esempio dell'albero della vita è diverso, perché allora lì c'è un soggetto da, certo, con cui entrare in relazione, un po' come quando si lavora su un'opera, no? Dove c'è la musica è una grande arte primordiale ma modernissima, perché non dà indicazioni, è un'arte, io dico, libera, che libera, perché se noi ascoltiamo in una stanza, siamo in 10, 100, 1000 persone, una melodia, ognuno di noi poi ci mette quello che vuole, quello che è. Mentre invece nelle altre arti segui comunque un'indicazione. No? Quindi è più libera. È molto libera, è assolutamente libera, perché poi tu la puoi plasmare come vuoi. No? Mentre invece, quando è stato per esempio l'albero della vita, la cosa interessante proprio è stato questo. Abbiamo lavorato con Marco Balic come in un'opera. Mm-hmm. Però la cosa bella è stata, io ho disegnato a seconda dei momenti dell'albero una specie di arcobaleno di sentimenti, dove ogni colore poi prendeva una sua posizione, un suo posto preciso, no? All'interno della... Ma la cosa bella era che i vari elementi, cioè la musica, l'acqua, il fuoco, la luce, non si prevaricavano. Il risultato, secondo me, molto importante di questo lavoro è che c'è un unicum, un'unione di varie forze, di vari elementi per arrivare a una cosa sola, bella, non dualistica, diciamo. Alberto, però tu ti lasci trasportare dal maestro Cacciapaglia. Noi siamo volati in alto e adesso dobbiamo tornare sul tavolo del buffet. Concretamente, sì, stenderci sul tavolo del buffet, ma perché dobbiamo dare una mano alla mamma che ci ha scritto. Ma direi che non è un problema solamente degli adolescenti, la sindrome da buffet colpisce un po' chiunque. Abbiamo visto non solamente per quanto riguarda il rapporto con il cibo, ma anche con le emozioni, le relazioni. Ma io direi, intanto, prima cosa, prima di avvicinarsi al buffet, fare un po' quel lavoro che raccontava anche il maestro, no? Cioè, lui dice, nel silenzio, quando io sto lì e aspetto, poi pian piano si genera. Allora, prima di avvicinarci a un tavolo, e quella è una delle cose che io detesto di più, cioè la massa che appena si aprono, sì, i cancelli, io non vado mai quando... la buffata, posso dire, esatto, sì, esatto, la buffata, cioè, perché con io non riesco questo... mai a mangiare nulla, perché c'è tutto il mondo che... Poi se mi avvicino, io sono magretta, mi danno subito una cosa, mi stendono, per cui lascio, poi quando arrivo non c'è più niente e questo è un, salta. È un gesto orribile, perché sembra che buffet. Noi dobbiamo nutrire noi stessi contro gli altri, cioè stiamo trasformando quell'operazione lì in una situazione dove la relazione con l'altro è vincolante, io devo accaparrarmi più cose perché altrimenti l'altro mi frega. Non è questo l'alimentazione, perché noi non siamo più nella preistoria dove magari dovevamo andare a cacciarci il cibo è lì, noi possiamo rimanere molto tranquilli, conseguentemente provare a fare un passo indietro, chiudere gli occhi e sintonizzarci sulla mia sensazione di fame e di appetito. Cioè, partiamo intanto dal dato fisiologico che ci viene raccontato dal corpo. Ma la mia fame oggi, da 1 a 10, quant'è? Perché se è una fame che vale 3, magari anche se c'è tanta abbondanza di offerte, io posso proprio pensare che nel mio piatto entra una quantità di cibo adatta al mio 3. Allora, se io per esempio ho una fame da 3, scelgo anche degli alimenti che un po' valgono 3. Quindi questa è un'indicazione, un suggerimento delicato agli ascoltatori che ci seguono, faranno magari una vacanza in un villaggio, quindi attenzione, seguite le indicazioni di Alberto Pellai, sappiate che però se tutti gli altri invece continuano a comportarsi con l'assalto rimarrete senza cibo, quindi fate un po' il vostro gioco, come si dice. Noi andiamo a sentire i mercati, torniamo subito dopo insieme al maestro Cacciapaglia e al professor Alberto Pellai, tutte e due sotto l'ombrellone di Cuore Denari, per chiacchierare, riflettere, insomma accendere pensieri, come dice Alberto Pellai, ma soprattutto provare a stare e a sentirci. Cuore e denari. sotto l'ombrellone di Cuore Denari si ascolta anche musica, si ascolta buona musica. Stiamo ascoltando dall'album Tree of Life di Roberto Cacciapaglia, Figlia del Cielo. La stiamo ascoltando, ma con un ascolto attento, un ascolto guidato. Maestro Cacciapaglia, aiutaci a guidaci nell'ascolto, perché è logico, la musica parla a ciascuno di noi, tu dicevi in modo assolutamente differente, ma io vorrei proprio approfittare della tua presenza qua in studio per regalare un percorso di ascolto più sintonizzato con quello che la musica vuole dire. Una musica che tu hai scritto, quindi vogliamo sintonizzarci con i messaggi di questo brano. Ma i messaggi innanzitutto sono la voce umana, la voce femminile, che in questo caso per l'albero della vita era la fertilità, l'acqua, la nascita, no? E poi vorrei dire che si sente che la voce non è melodrammatica, è una voce che è più vicina alle voci e alle vocalità della musica sacra. Mm-hmm. E questa la proietta anche nel futuro, perché non è associata, diciamo, a una storicità. Essendo pura, è un po' come la Royal Philharmonic Orchestra che abbiamo ascoltato, che non vibra. Cioè un'orchestra che io ho scelto e con cui è nata veramente una relazione profonda, perché è un'orchestra che oltre al repertorio classico... Sì. Ha lavorato con i Queen, con i Beatles, con i Pink Floyd, quindi sanno lavorare a 360 gradi. Ecco, forse sono andato un po' fuori tema, però il tutto per dire che è la purezza che conta, no? E quindi la trasparenza. Lasciamoci portare dal flusso, poi semmai in secondo tempo lasciamo lavorare la mente, che è così brava a giudicare, a ruotare e anche spesso a ostacolare le cose. Ecco, se la mente fosse un po' meno giudicante, noi riusciremmo a farci delle vacanze forse più serene, Alberto. Sì, e poi prenderei quest'idea del fatto che il flusso è proprio anche un concetto psicologico che è stato ben teorizzato ed è tra l'altro quello in cui noi abbiamo il massimo del nostro funzionamento mentale. Pensa che è stato ben scoperto osservando i bambini, uh-huh, che nel momento in cui stanno giocando in un'attività che li coinvolge molto, entrano in una zona di flusso dove loro sono veramente loro stessi e a quel punto niente più li disturba, niente da fuori può distrarli. Fanni subacquei, esatto. E questo è una delle esperienze che invece noi facciamo meno in assoluto in questo momento, perché noi abbiamo una vita dove siamo iperstimolati e profondamente sconnesse con noi stessi. Leggevo un libro proprio in questi giorni che ci diceva che noi alla fine del 1700 un essere umano medio nella sua vita riceveva stimoli dal mondo esterno che sono comparabili ai dati contenuti in un settimanale, in una rivista settimanale della nostra vita moderna. Quindi per la prima volta nell'evoluzione ogni giorno il nostro cervello deve processare milioni di informazioni per i quali in realtà non tutti noi siamo pronti. Questo overload, questo sovraccarico di cose spesso ci impedisce proprio quell'esperienza di vivere con la modalità del flusso e quindi dell'immersione e a quel punto poi della forte attenzione e attivazione, perché siamo costantemente dentro a 10 cose differenti. Ecco, e in vacanza noi possiamo provare a sperimentare strade nuove. Noi siamo sempre connessi, siamo sempre in relazione, abbiamo sempre mille cose da fare. La vacanza è anche un'occasione per stare a fianco alle persone che amiamo, per condividere con loro dei bei momenti, per andare a scoprire posti nuovi, vivere nuove esperienze, però... dobbiamo fare un lavoro prima su noi stessi, cioè per andare in vacanza dobbiamo andare in vacanza da tutte quelle cose che ci trattengono dall'essere, dallo stare bene con noi stessi. Alberto. Sì, se è tempo della vacanza non possiamo dentro alla vacanza mettere gli stessi ingredienti del tempo feriale, quindi una buona domanda può essere come differenzi, perché spesso noi spostiamo solo la location, cioè entriamo in una zona diversa geograficamente dove magari c'è il mare, ma lì dentro poi ci rimettiamo a fare esattamente tutte le stesse cose, oppure agire la stessa compulsività che abbiamo nella vita normale. Pensa a delle persone che sono in un villaggio e non si vogliono perdere neanche un'attività e quindi hanno un'agenda dalla mattina alla sera. Quelli vanno in sovraccarico, non vanno in una zona. Perché riempiono il loro tempo, maestro, nello stesso, anche in vacanza, con gli stessi ritmi che seguono quando sono al lavoro e nella vita di tutti i giorni. Certo che smettere di lavorare è doloroso per alcuni. Senti la mancanza e vivi questa sensazione di stordimento che dura qualche giorno. Forse alcuni dei nostri ascoltatori la stanno provando, alcuni manifestano un disagio proprio fisico, altri più psichico. Ma altri in realtà stanno solo fingendo di smettere, perché questo è un altro dato che la letteratura racconta bene, e cioè il fatto che quando noi ci portiamo dietro i nostri device elettronici, tutte le mail continuano a raggiungerci, tutte le telefonate o tutti gli aggiornamenti continuano ad arrivare, allora a quel punto noi quando realmente abbiamo staccato? Mentre entrare in una zona altra, in un territorio altro, decidere di mettere in gioco una parte altra di noi stessi che normalmente non è attivata, ecco, diventa possibile solo se noi stacchiamo le spine. Ecco, per un artista, per un musicista, per un compositore, io credo anche uno scrittore, questo passaggio è fondamentale. Cioè, maestro, voi e intendo le persone che fanno arte, dovete lavorare molto sulla dimensione personale. Ma e io come fate? Penso di lavorarci ogni secondo della mia vita. Cioè, quando respiro sto in attenzione, questo è molto importante. Quello che posso dire, al di là della mia esperienza, che diciamo è ormai di molti anni, no? E per me la musica, questo è bellissimo. Sì, perché per me più andiamo avanti, più siamo ricchi. La musica per me, diciamo, non è un fine, ma è un mezzo. È un mezzo, lo dico questo non tanto per rappresentarmi, ma perché penso possa essere interessante, perché la musica può essere nella sua funzione primaria, cioè quindi non intrattenimento, che quella ce n'è tanta, va benissimo, però un ponte, appunto come diceva Alberto, per toccare dentro di noi delle cose che nella vita quotidiana, non in vacanza, diciamo così, non riusciamo a percepire, no? Allora la musica può servirci a questo, no? E penso che sia importante per scoprire che magari poi d'estate dentro di noi le nuvole possono andarsene e il sole c'è sempre comunque. Alberto? Sono assolutamente d'accordo. A me verrebbe da dire ai nostri ascoltatori: avete preparato anche la colonna sonora della vostra estate, cioè avete selezionato quei progetti musicali, quei brani, chiamiamole attivazioni musicali che vi servono in questo momento, o vi state semplicemente portando dietro tutto quello che già c'era prima che voi partiste e vi accompagna lì? Secondo me scegliere proprio anche la colonna sonora di quel luogo, in quel momento, di quel passaggio della mia vita è molto importante. Provo a dimostrarvelo, perché ci sono dei passaggi della nostra vita dove improvvisamente è arrivata una musica che ha reso indimenticabile quel momento lì, perché c'era una perfetta sintonia, e a 10 anni di distanza, quando noi riascoltiamo quella musica, il nostro cervello ritorna esattamente a provare le stesse sensazioni di quel momento. Allora, questo è un modo... Per questo facevamo il parallelo tra l'odore, il profumo e la musica, maestro. Ma quando siamo aperti tutti i sensi lavorano insieme, no? Quindi è una cosa meravigliosa. Certo, associare anche un suono a un profumo, a una visione... Alberto, e questo potrebbe anche aiutarci a vincere una paura che tutti noi abbiamo, proprio perché siamo sempre in mezzo a tanta gente, di stare un po' da soli in vacanza. Potrebbe essere un'ottima idea. Vedo che al maestro Cacciapaglia piace, perché ha fatto con la faccina. Le piace, ha degustato questa solitudine. Sì, è indispensabile. Se si vuole arrivare, diciamo, a un contatto con se stessi, una parte del giorno, ma anche 10 minuti, bisogna dedicarla a noi stessi. Allora, ci facciamo fare subito una ricettina ad Alberto Pellai, quindi un po' di solitudine ogni giorno nelle nostre vacanze, senza per questo sentirci in colpa nei confronti del compagno, del marito, dei figli, dell'amica che è in vacanza con noi. Ma io direi di riprendere la lezione che ci dava il maestro Cacciapaglia, cioè in fin dei conti solitudine non è isolamento, solitudine è essere sintonizzati con se stessi. Quindi direi che il primo esercizio è essere, per esempio, consapevoli del mio respiro. Ogni respiro è un atto e un gesto di vita. Mi permette, se io ho quella consapevolezza, di stare nel qui ed ora. Il secondo aspetto è che nel momento in cui io sono sintonizzato con me, e quindi posso diventare anche solo in mezzo a un milione di persone, e quella solitudine però è fatta da tutte le stimolazioni, sensazioni, tutti quegli elementi sensoriali che mi entrano dentro e che diventeranno l'immagine emotiva del momento in cui sto vivendo. Allora, fare questo lavoro in vacanza, in un luogo magari dove la natura è esteticamente stimolante, dove ho di fronte a me colori, immagini che non ho nella quotidianità della città o del lavoro, sintonizzare e unire insieme quello che vedo, quello che sento con le orecchie, ma anche quello che sente il la mio mia corpo, pelle la mia in questo pelle, momento. Ogni poro. Ecco, significa mettere dentro un'immagine emotiva che non è tridimensionale, è globale. E questo suggerimento lo diamo anche a chi non è andato in vacanza, si è preso delle vacanze proprio a casa, magari è rimasto in città, è rimasto nel paese di residenza. Anche nella nostra casa c'è un luogo in cui noi possiamo ritirarci per stare un po' con noi stessi, per regalarci un po' di solitudine. Subito dopo le informazioni sul traffico ritorniamo di nuovo insieme al professor Alberto Pellai e al maestro Cacciapalli. Cuore e denari. Questo brano che stiamo ascoltando, maestro Cacciapaglia, dove ci porta? Localizziamoci. È il finale dello show serale dell'Albero della Vita, quello che conclude, diciamo, come senti è molto sinfonico, quindi è proprio una specie di simbolo, simbolo della musica e dell'apoteosi dell'albero. E quindi ci riporta anche nell'atmosfera di Expo. Ma io volevo, proprio ripensando a Expo, chiedere a lui che cosa è stato per lui vedere la prima volta l'albero della vita, il simbolo di Expo che si illuminava, cioè che cosa è stato per lui il primo night show completo dove la sua musica ha fatto la colonna sonora di un evento che tutte le sere adesso fino alla fine di Expo guarderanno migliaia di persone. Sì, è tra l'altro molto interessante perché mi sono arrivate tantissime cose ed è interessante come la condivisione sia un aspetto dei nostri tempi, importantissimo condividere. E io l'ho visto tra l'altro la prima volta perché eravamo con l'Expo chiuso perché non c'era ancora l'inaugurazione, c'è stato in anteprima. E l'aspetto che mi ha colpito di più è che, come ti dicevo prima, abbiamo lavorato come si lavora magari in un'opera lirica. Poi in questo caso c'è stata un'unione dove nessun elemento, cioè il fuoco, la luce, la grafica, la musica, l'acqua, non prevaricava gli altri. Quindi è stato una visione, è stato molto forte, molto toccante, la possibilità di lavorare insieme, di condividere e di realizzare una cosa che abbia un'unicità. Parlavamo del respiro, ma di fronte, che è importante, ma di fronte a uno spettacolo di questo tipo, in cui tu, maestro, sei stato sicuramente uno dei protagonisti, uno degli autori, sei riuscito a respirare o è stata una emozione così impattante, forte, da farti trattenere il fiato? Ma diciamo, siccome è qualche decennio che lavoro per utilizzare le emozioni e per non essere schiavo, ovviamente ho usato l'emozione. L'emozione è un mondo straordinario, istantaneo, diversamente dalla mente. Qui il professore sa bene cosa voglio dire. La mente ci mette tempo, ha bisogno di valutare, è lenta. L'emozione è quando tu vedi un tramonto, un uccello che vola, qualsiasi cosa ti colpisce. Ecco, questo è interessante perché è una via. L'emozione, l'istantaneità, è una via per toccare delle dimensioni che durante diciamo, la quotidianità di cui parlate, ovviamente che siamo immersi, abbiamo poche occasioni, però è sempre lì, eh. Basta essere attenti e arriva. Hai ricevuto molti commenti, contatti, sì. Hai sottolineato la potenza e la bellezza della condivisione. Che cos'è, qual è il messaggio che ti ha più colpito? Beh, vedere dei messaggi da bambini di 9 anni, da signore di 90, con storie completamente diverse, toccate allo stesso modo, e sentire come in quest'epoca, dove sembra che molte cose ci allontanino da noi stessi, in realtà c'è un bisogno, un desiderio di essere nutriti, parliamo di nutrimento, di tante cose che di cui abbiamo bisogno. E non a caso abbiamo scelto di invitare sotto l'ombrellone questi due temi. Siamo partiti da la sindrome da buffet, che è un modo di approcciarsi al cibo un po', come dire, sregolato, e l'abbiamo mescolata con la musica. Sembrano due temi assolutamente lontani, ma nell'uno c'è il segreto per interpretare e leggere l'altro. Sì, e poi direi che c'è una parola chiave che li lega tutti e due, che è la parola Expo, perché questa, che è la colonna sonora del live show di Expo, in realtà ci teneva in contatto anche con tante delle domande che ci ha fatto Marta, la mamma dei due bambini, all'inizio della trasmissione. Mi sentirei di dire a questo proposito, intanto, che per esempio se andiamo a Expo con i nostri figli, Expo è davvero un'esperienza per tutta la famiglia, è stata raccontata, è stata presentata così dai responsabili, dagli organizzatori di Expo, e direi che in questa lunga estate calda può essere davvero una modalità che consiglierei anche a Marta con i suoi bambini, un altro modo per riflettere sul fatto che il cibo è parte della nostra vita, non va gestito in modo bulimico, va pensato, va amato, va gustato, può essere davvero quello di accompagnare i nostri figli in una visita ad Expo, sì, dove lo stile non deve essere quello bulimico, cioè quello di vedere più padiglioni possibili, guardare più cose possibili, magari assaggiare più sapori possibili, ma un buon consiglio è: prepariamo la nostra visita ad Expo, cioè accompagniamo i nostri figli, andiamoci insieme a loro e proviamo a farci un'idea di che cosa vogliamo fare durante una giornata, quali sono le cose che vogliamo esplorare insieme. Ci sono, tra le altre cose, per chi arriverà con i bambini, proprio delle esperienze come il Children Park, dove i bambini hanno la possibilità anche proprio di fare un percorso educativo che è stato pensato e strutturato a loro misura. E quindi direi, io penso che sono davvero tanti gli ascoltatori che utilizzeranno anche una pausa estiva per andare ad Expo. Se portate i vostri figli, cercate di farlo dentro a un percorso, dentro ad un progetto, altrimenti arrivate lì e diventa un po' come andare in una qualsiasi fiera. Potrebbe essere divertente preparare i bambini studiando insieme a loro la mascotte di Expo, che fu costituito da 11 elementi, che ci sono anche dei cartoni animati. Ah sì, secondo me è veramente bella, sia nel progetto che ha dentro Foodie, sia anche per come si presenta. È bella, sì. Cioè è una composizione di 11 banana, pera, alimenti figo, naturali, e secondo me questo per esempio è un modo anche di preparare la visita ad Expo. Cioè, se partiamo dalla mascotte, io una cosa che farei con mio figlio che deve andare ad Expo, per esempio vado in un supermercato e comincio a cercare più possibili degli 11 elementi che secondo me farai un po' fatica a trovare la melagrana, ma per il resto banana, pera, fico, angurio, mango, mela, rapanelli ricchissimi di vitamina C, aglio, arancia, non è stagione ma ci sono sempre, e zucchine le trovi. Quelle sono garantite. Allora, a proposito di foodie, sai che facciamo? Lo facciamo anche col maestro Cacciapaglia. Proviamo ad ascoltare un breve assaggio di questa simpatica mascotte. Salutare il maestro Cacciapaglia, 11 alimenti naturali, colorati, com'è la dieta del maestro Cacciapaglia? Quanta frutta e verdura mangia durante la giornata? Faccio un po', sembro una maestrina. Pochissima. No, sto scherzando. No, la dieta è essenzialmente biologica. Perché penso che sia molto importante tornare, diciamo, alla natura il più essenziale possibile. Al di là degli elementi, diciamo, proteine, eccetera, ma cerco sempre comunque la biologia. Beh, quindi anche lui foodie, vedi? Sì, e allora aggiungiamo su questo spunto che, per esempio, i vostri figli che vanno in un buffet devono magari prendere 6 cose differenti, e teniamo il concetto della varietà, che devono avere 6 colori differenti, e più mangiate colorato, più probabilmente entrate in quella zona di cibo e alimento naturale che molto probabilmente migliorerà anche la qualità dell'alimentazione di un bambino. Un altro consiglio: se avete bambini, se vi fanno un po' disperare a tavola, andate a leggervi le ricette che Lucilla Titta ha preparato, le trovate sulla pagina di Cuore Denari, e sapete che avevamo fatto un reality con 8 profili differenti per tradurre nella pratica quotidiana i temi di Expo. Bene, ricette per i piccoli di Lucilla Titta e del cuoco Roberto Di Mauro, potete trovarli sulla nostra pagina, e quindi sperimentate insieme a loro, perché se è vero che l'appetito viene mangiando, si impara cucinando. Alberto, noi ci eravamo anche dati questo obiettivo, convincere e stimolare i nostri ascoltatori a portarsi un libro sotto l'ombrellone o a portarlo di fianco all'ombrellone dell'amico. Sì, e il libro che ci siamo scelti allora per la nostra puntata di oggi è un libro che si intitola Quando decidiamo, siamo attori consapevoli o macchine biologiche, l'ha scritto Mauro Maldonato, è pubblicato da Giunti Editore, e ci fa, secondo me, è proprio cade a fagiolo, come si dice, perché molti dei nostri processi decisionali in parte sono proprio scritti dentro la nostra parte cognitiva, siamo noi che autodeterminiamo le nostre scelte, ma in gran parte invece hanno una enorme quantità di variabili e di componenti che ci muovono e ci spingono verso la presa di decisioni che sono potentemente influenzate da fattori di cui non siamo perfettamente consapevoli. Allora, il libro è proprio una sorta di scatola del tesoro che fa vedere tutta una serie di variabili che impattano i nostri processi decisionali, che noi pensiamo sono il massimo della nostra autodeterminazione, e invece se leggeremo questo libro veramente impareremo a decidere con il 100% della nostra consapevolezza. Grazie ad Alberto Pellai. Maestro, è stato veramente un bel incontro, come sempre, quando lei viene a trovarci, ci ha dato, ci è battuto il cuore. A lei, diciamo, prima sì, mi dava del tu. È vero, perché sono emozionata. Posso dire soltanto una cosa, che sono veramente felice di essere qui, perché è una trasmissione evolutiva, verso l'evoluzione, e ne abbiamo bisogno, evoluzione a tutti i livelli, quindi sono molto contento. Vedi che a dargli del lei mi fai complimenti. Grazie al maestro Cacciapaglia. Alberto Pellai, ormai un pochino più abbronzato, torna domani per nuove sfide educative e non. A domani.